Il punto di Stefano Folli. Il partito fondato da Berlusconi sul famoso Predellino e che è ancora di Berlusconi si avvia all'epilogo. In questi giorni si decide tutto: il definitivo ritorno in campo del padre padrone, la scelta finale sulla legge elettorale e il destino di quel tanto di classe dirigente che si era creata negli anni, a cominciare dal segretario Alfano, con l'idea di rappresentare i ceti moderati e non gli estremisti. Si decide tutto, compreso il nome che Berlusconi ha in mente per il suo vecchio partito, da lui odiato, e che vorrebbe riportare ai fasti di Forza Italia, ricominciando da capo, ma non è possibile tornare alle origini 18 anni dopo. Quello che sta avvenendo in questi giorni nel centrodestra è inquietante, anche perché destabilizza un'area che è sempre stata decisiva per gli equilibri politici e quasi sempre anche per il governo del paese. Mentre Mario Monti festeggia la discesa dello spread sotto i 300 punti, che è simbolicamente un grande successo politico del governo, l'area che dovrebbe essere più europeista e più contenta di questo risultato è percorsa da furori distruttivi e una scissione è alle porte, anzi si sta già consumando.